Rossana Podestà un anno dopo. Sembra che Walter sia qui, da come ne parli sembra una presenza sempre così nella tua vita e nella vita di tutti. Sì, sai che non riesco a parlare al passato quando parlo di Walter, qualcosa che non mi riesce, la gente mi guarda e poi dice questa è scema, ma io non posso, Walter è ancora con me. E il fatto poi di aver lavorato a questo libro, aver passato un anno nei suoi ricordi, a guardare nella sua vita anche cose che per me sconosciute, perché ovviamente non è che andavo a frugare nei suoi cassetti, cosa che adesso ho dovuto fare, è come se rivivessi, che posso dire, come se l'avessi lì vicino. Alle volte chiedevo, facevo dei discorsi, alle volte lo sgridavo perché nascondeva le cose troppo, cercavo delle cose, non le trovavo, le aveva messe chissà dove. Insomma, il mio rapporto con lui è ancora vitale e spero che duri sempre così. Il congedo di Bonatti non è stato come avresti voluto, sì. C'è stata questa vicenda che certo. Vi hanno separato perché non eravate sposati, sì, certo. Legalmente eravate una coppia da 30 anni assieme, ma cosa ti è rimasto di qui, questo episodio così amaro? Mi è rimasto uno dei dolori più grandi che ho provato nella mia vita. Io ho fatto di tutto perché Walter potesse essere felice durante la sua malattia, lui non se n'è neanche accorto tranne l'ultima settimana, e l'idea di aver perso la possibilità di controllare la sua morte, io volevo che fosse dolce, che fosse in braccio a me, che potessi tenergli la mano, gli potessi sussurrare cose che forse lui non avrebbe sentito ma che comunque gli potevano anche fare del bene, invece me l'hanno tolto e l'hanno lasciato soffrire in una maniera terribile, perché la mancanza di ossigeno è una premorte, per cui lui ha passato una giornata agonizzando senza, e non gli davano niente, lo lasciavano lì, e questa cosa per me è stata intollerabile e non potrò mai dimenticarla, mai. Non deve essere stato facile scrivere un libro così intimo e così anche pubblico. Ecco, questo è stato il problema, però ho pensato che dire la verità aiuta, nel senso che siccome non c'era niente di che potesse disturbare Walter, dicevo solo cose che lui ha vissuto e che sono servite alla sua crescita e alla sua formazione anche di alpinista, pensavo che queste cose fossero accettate, penso che lui le avrebbe accettate anche se fosse stato in vita, e per cui mi sono sempre messa, come posso dire, dalla parte, come se fosse lui a scrivere, capite, parlasse di se stesso. Il Walter privato e il Walter pubblico, siccome è un monumento Bonatti ormai, ecco, sono due uomini diversi o alla fine è sempre lo stesso? No, è sempre lo stesso, perché è difficile che un uomo possa sostenere la doppia personalità, insomma mi sembra che non è poi nelle corde di Walter, che è sempre stato un sincero, limpido, per cui è difficile fare l'alpinista eroe poi in casa, però devo dire che come brontolava certe volte in montagna, brontolava anche a casa, sì. Era abbastanza severo. Si dice di Bonatti, soprattutto in un tempo così difficile che mancano punti di riferimento, che è stato un modello di coerenza, lo confermo. Sì, io su questo sono d'accordissimo, Walter aveva un'etica personale e un grande rispetto per il libero arbitrio, una cosa fantastica che ci è concessa, quella di poter avere la possibilità di seguire una strada giusta e una strada sbagliata, e lui questo ti dà la possibilità di essere persone fantastiche solo se si vuole e se si ha la capacità di esserlo, per cui la scelta che penso che ogni essere umano debba fare è quella di riuscire ad essere il più possibile in sintonia con se stessi, usare il suo libero arbitrio per il bene e non per il male.